Mango Tart legge Manacold di Sending You. Capitolo 8. Programma di ripopolamento in corso. La sangue sporco di Potter è tra le prime surrogate scelte dal Signor Oscuro per ripopolare la popolazione magica. Hermione continuò a leggere. La prima fase del programma di ripopolamento della Gran Bretagna è iniziata. Le surrogate sangue sporco idonee sono state assegnate ad alcune delle più eminenti famiglie di maghi della Gran Bretagna, nella speranza di ripopolare la popolazione dei maghi. Le assegnazioni sono state approvate dal Signor Oscuro in persona, in consultazione con la guaritrice Lydia Strout, che ha trascorso la sua carriera specializzandosi in genetica e fertilità magica. La più notevole tra le surrogate è la sangue sporco Hermione Granger, ultimo membro sopravvissuto della cellula terroristica conosciuta come l'Ordine della Fenice. La strega ha avuto una certa reputazione fin dalla giovane età per le sue associazioni romantiche con maghi famosi. Questo è stato particolarmente notevole nel 1994, con non uno, ma due concorrenti del torneo Tre Maghi, Harry Potter e Victor Krum. Ora potrebbe aver trovato la sua strada nel letto del mago più potente finora. Draco Malfoy, noto soprattutto per aver assassinato lo stregone Albus Silente alla tenera età di 16 anni, è stato a lungo uno stimato mangiamorte. Il profeta ha confermato tramite diverse fonti che la surrogata Granger è stata trasferita a Malfoy Manor poco più di una settimana fa. Da quando Lucius Malfoy ha abdicato il suo titolo di signore del Manor a suo figlio, dopo la morte di Narcissa Malfoy nel 2001, la linea di famiglia è rimasta senza un erede. Purtroppo il giovane Lord Malfoy non può affezionarsi troppo alla traditrice che scalda il suo letto. Una volta generati tre eredi Malfoy, la guaritrice Stroud ha confermato che la surrogata Granger sarà trasferita a un'altra famiglia di maghi puro sangue per aiutare ulteriormente a diversificare il sangue magico della Gran Bretagna. Se i risultati degli sforzi di diversificazione avranno il successo previsto, la guaritrice Stroud spera che tali sforzi inizieranno ad essere diffusi in tutta l'Europa magica entro un anno. Quindi Malfoy era quello che aveva ucciso Silente, un altro nome nella lista di quelli uccisi dall'Airiv. E Lucius era ancora vivo, da qualche parte. Non c'era alcun accenno alle altre donne del programma. Hermione scandagliò gli altri articoli, raccogliendo ogni frammento di informazione. Quello successivo elencava le esecuzioni in Gran Bretagna eseguite dall'Airiv. C'era un'immagine. Diversi uomini e donne dall'aspetto smunto in ginocchio su una piattaforma. Dietro di loro, in abiti neri e una maschera ornata, stava l'Airiv. Nell'immagine lui estraeva la bacchetta e con un colpo casuale uccideva la prima persona. Riservava malapena uno sguardo al corpo che cadeva prima di lanciare una seconda maledizione sulla persona successiva. Il loop dell'immagine durò solo pochi secondi, ma Malfoy ne uccise tre prima che ricominciasse. Hermione lo fissò, osservando ogni dettaglio. Sapere che era Malfoy rendeva ovvio che fosse Malfoy. La postura casualmente elegante, il movimento indolente, la freddezza mortale che sembrava irradiare da lui. Tuttavia, né l'articolo sugli sforzi di ripopolamento, né la rubrica riguardante le esecuzioni facevano alcun riferimento al fatto che Malfoy fosse l'Airiv, come se il titolo e il suo portatore fossero separati. L'anonimato era sorprendente. Il giornale non faceva alcuna speculazione sull'identità dell'Airiv, come se non gli fosse permesso stampare una cosa del genere. Rimuginò su quel dettaglio. L'Airiv era il braccio destro di Voldemort, apparentemente il suo rappresentante. Si chiese se l'anonimato fosse nell'interesse di Voldemort o di Malfoy. Probabilmente quello di Voldemort, sospettava. Il Signore Oscuro aveva un burattino eccezionalmente potente. Persino Voldemort stesso, quando aveva ucciso Harry, non aveva lanciato la maledizione con tanta rapidità e mancanza di sforzo. Non avrebbe permesso a Malfoy di prendere i suoi seguaci, accumulare potere personale e poi cercare di rovesciare il suo maestro. Costringerlo a mantenersi anonimo dietro il suo titolo, permettendo solo che fosse conosciuto dai Mangiamorte e da altri servitori fidati, era probabilmente un mezzo per controllarlo. Lo stava tenendo molto vicino. Forse Malfoy aveva ambizioni segrete che preoccupavano Voldemort. Lo rendeva anche la trappola perfetta per i combattenti della Resistenza. Se qualcuno avesse cercato di salvare Hermione, avrebbe dato per scontato di stare semplicemente attaccando un mangiamorte coccolato di seconda generazione. Non avrebbero avuto idea di essere nella morsa dell'Airiv, il servo più infamemente mortale di Voldemort. Sfogliò il resto del giornale. Il Nord Europa non era ancora sotto il controllo dei mangiamorte. Voldemort si stava muovendo aggressivamente per mettere in ginocchio i paesi scandinavi. A quanto pareva, i vampiri, le megere e le altre creature dell'oscurità che erano state portate in Gran Bretagna durante la guerra erano state spostate nel Nord Europa negli ultimi mesi. Nessun accenno all'insurrezione in Romania. Nessuna menzione di membri noti della resistenza ancora in vita. Paius Otus era ancora ministro della magia. C'era un torneo tra i maghi in programma per l'anno successivo. Diverse pagine erano dedicate alle partite internazionali di Quidditch. A quanto pareva, la distrazione dello sport conservava il suo fascino anche sotto il regime distopico. Il resto del giornale era composto da pagine di società. Astoria Malfoy era una persona mondana. Partecipava ad ogni evento, a tavoli alle associazioni di beneficenza e donava i memoriali del dopoguerra. Malfoy era in gran parte assente dalle pagine mondane. Solo occasionalmente si univa alla moglie. Hermione lesse ogni parola, comprese le pubblicità, cercando qualsiasi indizio, qualsiasi sottotesto, qualsiasi cosa che potesse essere non detta, ma sottintesa. Se erano incluse nelle notizie, era troppo ignorante in materia di attualità per rilevarle. Alla fine ripiegò accuratamente il giornale con le dita rigide e lo rimise nel posto in cui era stato abbandonato sulla veranda. Si massaggiò le mani gelate mentre si affrettava a risalire il Manor. Sorprendentemente non ebbe un attacco di panico tornando indietro da sola. Forse era solo perché era distratta dal freddo. Incrociò le dita e sperò. Il percorso di ritorno alle sue stanze fu semplice. Appena tornata, si precipitò in bagno e aprì l'acqua fredda. La lasciò scorrere sulle mani intorpidite fino a quando la sensibilità tornò gradualmente e l'acqua smise di sembrarle calda. Poi aprì i rubinetti della vasca da bagno e si fece un bagno. Affondò nell'acqua con un sospiro, assaporando il sollievo dal dolore in tutto il corpo congelato. Si strofinò i piedi e le caviglie fino a quando gli ultimi residui di sporco non scomparvero. Dopo aver vissuto in una cella per così tanto tempo, non avrebbe mai più dato per scontato il poter essere pulita. Non sapeva se avrebbe mai superato il ritrovato brivido di affondare fino al collo in una grande quantità di acqua. Era il solo e unico punto culminante della sua esistenza, al momento. Lo stesso non si poteva dire per il cibo, che, anche se chiaramente costoso, era a scopo esclusivamente nutrizionale. Non sapeva molto delle diete pre-gravidanza, ma non capiva perché le fosse permesso di mangiare solo verdure non salate, stracotte, pane di segale con burro non salato, carne bollita e uova in camicia, anche queste senza sale. Mentre stava immersa nell'acqua, riscaldandosi lentamente, considerò la rivelazione della giornata. Il suo essere surrogata sotto lo sguardo attento di Malfoy veniva usato come esca. Il linguaggio beffardo e allettante dell'articolo di prima pagina era distaccato, un tono precisamente bilanciato che cercava di disumanizzare Hermione per evitare la pietà del pubblico in generale e allo stesso tempo si sforzava di suscitare l'indignazione di eventuali simpatizzanti. Si chiese che tipo di misure di sicurezza erano state messe in atto per catturare i suoi aspiranti soccorritori. C'erano altri mangiamorte di guardia al Manor? O si presumeva che l'Airiv fosse abbastanza capace di occuparsi personalmente di tutti quelli che arrivavano? Se fosse stato il primo caso, Hermione avrebbe dovuto tenerli d'occhio e cercare di scoprirli. Sarebbero stati una complicazione in più per la sua fuga, a meno che non fosse riuscita in qualche modo a guadagnarsi la loro simpatia. O forse poteva provare ad ingannarne uno di loro per ucciderla, se si fosse arrivati a quel punto. Un piano molto ambizioso e dubbio, dato che Malfoy avrebbe probabilmente trovato l'idea nella sua mente molto prima che lei avesse la possibilità di metterla in atto. Se fosse stato solo Malfoy, Beh, sarebbe stata un'indicazione preoccupante della fiducia di Voldemort nelle sue capacità. Quanto era pericoloso? Hermione appoggiò la testa sulle ginocchia e cercò di ricordare più chiaramente le circostanze della morte di Silente, avvenuta più di 8 anni prima. I dettagli erano appannati. Chiuse gli occhi e si sforzò. Era successo a meno di un mese dal 6° anno. Le protezioni erano scattate nei corridoi quando qualcuno aveva usato l'anatema che uccide. Il castello si era riempito di polvere buio-pesto peruviana e di studenti urlanti e in fuga. Quando l'oscurità finalmente era svanita, c'erano dozzine di studenti feriti in preda al panico e il cadavere di Silente era stato calpestato nel caos. Gli studenti del 1° anno di Tasso Rosso e Serpe Verde erano appena rientrati nel castello da una lezione di erbologia. Erano gli unici ad aver visto qualcosa, ma le dichiarazioni erano contraddittorie. Silente era morto. C'era uno studente più grande nel corridoio. Forse 2. Maschio. Un corvo nero. Un serpe verde. Un grifondoro. Un tasso rosso. Cormac McLaggen. Adrian Pusey. Colin Creevy. Ernie McMillan. Draco Malfoy. Zacharias Smith. Anthony Goldstein. I primi anni non avevano idea di chi fossero molti studenti dopo solo 3 settimane di corso. Il consenso generale era che fosse stato qualcuno di biondo. Avevano sentito una maledizione, poi l'oscurità. Alcuni avevano detto che era successo al contrario, il buio, poi la maledizione. Tutti urlavano e correvano, nessuno riusciva a vedere nulla. Tutte le barriere si erano attivate. Quando l'oscurità si era diradata, i professori avevano riunito tutti nella sala grande. Il Dipartimento di Applicazione della Legge Magica era sopraggiunto per interrogare gli studenti ed esaminare il corpo. L'autopsia aveva concluso che la causa della morte è stata una maledizione mortale alla schiena. Non era stato rilevato nessun altro incantesimo recente. C'era qualcos'altro. Qualcosa sulla mano di Silente. Hermione cercò disperatamente di ricordare. Sembrava che fosse un dettaglio importante. Il ricordo danzava appena fuori dalla portata. Tutti gli studenti più grandi nominati dal 1° anno erano stati interrogati e scagionati dai sospetti. Tutti tranne Draco Malfoy. Lui era assente. Il castello e i terreni erano stati setacciati. Era sparito. Gli Auror erano stati inviati a Malfoy Manor e lo avevano trovato impenetrabile. Fu ritenuto colpevole. Se avesse lanciato personalmente la maledizione, se fosse stato aiutato e perché l'avesse fatto, erano domande senza risposta. L'ordine aveva supposto che fosse stato un tentativo di redimere la famiglia Malfoy dopo il fallimento e l'imprigionamento di Lucius dopo la battaglia nell'ufficio misteri. Hermione non ricordava che fosse mai stato confermato che Malfoy avesse ucciso Silente. Quando i Mangiamorta avevano preso il controllo del Ministero della Magia, 6 mesi dopo, era diventato difficile ottenere informazioni reali. La Gazzetta del Profeta era diventata immediatamente una vera e propria macchina di propaganda. Era stato confermato? Non lo sapeva. E l'incapacità di farlo non aveva senso. Non sapeva nemmeno dire dove fossero i vuoti di memoria. Finché non le veniva posta una domanda, non si rendeva conto di ciò che mancava. Quando provò a riordinare i ricordi con la magia, fu come strisciare nel catrame. Estenuante. Quasi inutile. Se versava più di un filo di magia nel tentativo, le manette si attivavano e risucchiavano tutto. Il senso più chiaro che aveva di dove si trovassero i ricordi perduti era dovuto ai vari sforzi di Voldemort, Piton e Malfoy per penetrare in essi. Il dolore, lo shock e il trauma avevano offuscato i dettagli. Le sembrava che ci fossero pochi ricordi perduti, sparsi durante la guerra e che la maggior parte fossero concentrati nell'ultimo anno, fino alla sua prigionia. Le lacune nella sua conoscenza la laceravano dentro. Voleva disperatamente sapere cosa mancava, ma era anche terrorizzata all'idea di recuperare le informazioni. La faceva sentire come se stesse camminando in un campo minato. Non aveva idea di quali potessero essere i passi falsi. Cercare di accettare la perdita di informazioni, di comprensione, era come una sensazione di veleno amaro dentro di lei. Perché avevano perso la guerra? Non poteva almeno ricordarsi quello. Era come se lei e Malfoy stessero giocando una partita a scacchi, ma solo lui poteva vedere la scacchiera. Era la disperata ricerca di qualsiasi frammento di conoscenza. Non appena l'avrebbe avuto, l'avrebbero saputo anche i suoi nemici. La sua ignoranza era contemporaneamente uno scudo e un'arma. Le facevano guadagnare tempo per scappare, ma poteva piombarle addosso in qualsiasi momento. Per qualche ragione era quasi certa che avrebbe portato con sé la sua fine. Aveva una spada di Damocle sopra la testa. Quando finalmente si decise a uscire dalla vasca, aveva i polpastrelli raggrinziti dall'acqua. Si sentiva prosciugata. Si arrampicò sul letto e abbracciò un cuscino. La sua mente correva senza sosta, piena di domande a cui non aveva risposte. Il giorno dopo, Malfoy apparve di nuovo subito dopo pranzo. Sentì il cuore sprofondarle nel petto, ma si tirò su il mantello e lo seguì docilmente. Il solo camminare dietro di lui le faceva aumentare i battiti. Si chiese se lui potesse sentirlo, attraverso qualsiasi cosa avesse che la sorvegliava. Quando arrivarono alla veranda, Malfoy evocò immediatamente una sedia e si sedette, sfogliando un giornale. La notizia di prima pagina riguardava un nuovo monumento in onore di Voldemort, che era stato inaugurato in Diagon'Alley. Lei rimase impacciata accanto alla porta, chiedendosi dove andare. Guardò Malfoy e cominciò ad aprire la bocca per fare una domanda, ma era come se il suo corpo la inghiottisse prima che potesse forzare le parole. Silenziosa. Non riusciva ad iniziare una conversazione. Fissò amaramente il labirinto di siepi. Supponeva avrebbe vagato senza meta. Cominciò ad allontanarsi, ma mentre lo faceva, un leggero senso di disagio si insinuò in lei. Alzò lo sguardo e osservò il cielo aperto e grigio. Il suo cuore sembrò bloccarsi bruscamente, come se tutto l'ossigeno e i suoni esistenti fossero stati bruscamente risucchiati via e davanti a lei ci fosse semplicemente un vuoto immenso. Non c'era aria. Le sembrava di soffocare. Il cuore iniziò a batterle forte, sempre più velocemente. Riusciva a sentirlo. Vedeva i gradini, la ghiaia, le siepi. Sembrava che... niente. Come se l'universo finisse ai suoi piedi. E se avesse fatto un altro passo in avanti, ci sarebbe caduta dentro. Si bloccò. Cercò di muoversi, ma tremava e non ci riusciva. Si morse il labbro. Cercò di respirare. Cercò di costringersi a camminare in avanti. Era tutto così aperto. Chiuse gli occhi. Era solo nella sua testa. Solo nella sua testa. Lottò per respirare. Fece una serie di respiri acuti e affannosi mentre lottava per pensare. Il giorno prima era stata bene. Era così inorridita, arrabbiata. Aveva corso per diverse miglia, ma ora non poteva. Era tutto così tanto. Non ricordava che il mondo fosse così ampio prima, il cielo così alto. I sentieri continuavano e continuavano all'infinito. Non sapeva dove finivano. Le mani cominciarono a tremarle e contorcersi mentre ci pensava. Stava per sentirsi male. Voleva tornare nella sua stanza. Voleva schiacciarsi in un angolo e sentire le pareti intorno. Si fissò i piedi e sentì le lacrime che le pungevano gli angoli degli occhi. Il panico salì attraverso di lei come una marea. Il cuore cominciò ad andare sempre più veloce. Aveva come un uccello svolazzante ingabbiato nel petto, che la beccava a morte mentre cercava di scappare. Si premette le mani sulla bocca e cercò di non andare in iperventilazione. Un suono acuto attirò bruscamente la sua attenzione. Si voltò per scoprire che Malfoy stava stringendo il giornale così forte che le nocche gli erano diventate bianche e le mani gli tremavano debolmente. Sussultò e si allontanò, incespicando. «Scusa, scusa!» balbettò terrorizzata. «Sto andando!» Fece solo qualche altro metro prima che le sue gambe si rifiutassero di portarla oltre. Aveva paura di stare vicino a Malfoy, ma nemmeno lui superava il terrore che la inghiottiva mentre cercava di camminare in avanti. Le sembrava che tutta l'aria le fosse stata spinta fuori dai polmoni. Aprì la bocca e cercò di ansimare per respirare. Non ci riuscì. Il terrore affondò in lei come una creatura che le infilava gli artigli nella schiena, trascinandoli lungo la spina dorsale, squarciandola, esponendo tutti i muscoli, i nervi e le ossa all'aria fredda dell'inverno. Stava morendo. Non riusciva a respirare. Il mondo era come inclinato di lato. C'erano aghi che affondavano in lei, nelle mani e nelle braccia. Tutto quello che riusciva a vedere era l'aperto. Non riusciva a smettere di tremare. Non riusciva a smettere di farsi prendere dal panico. Non riusciva a... Era così aperto. Un vuoto. Niente. Non c'era niente. Era infinito. Era tutta sola. Non c'erano nemmeno i muri. Niente. Avrebbe potuto urlare nell'infinito, ma non usciva nessun suono. Non sarebbe venuto nessuno ad aiutarla. C'era solo l'oscurità che divorava il cielo. Non c'era niente. Non sarebbe venuto nessuno. Non poteva. Basta! Sentì improvvisamente ringhiare da dietro di lei. La realtà le piombò addosso come un'inondazione. Si alzò e si guardò indietro. Malfoy era pallido, gli occhi lampeggianti mentre la fissava. «Sei obbligata a stare fuori, ma non ti eri chiesto di andartene a zonzo. Non farti venire una crisi mentale che compromette il mio accesso ai tuoi ricordi». Contorse leggermente il viso mentre continuava a guardarla. Estraendo la bacchetta, evocò un'altra sedia. «Siediti e calmati», comandò in tono gelido. Hermione tirò un respiro profondo e si lasciò trasportare dai piedi, cercando di non soffermarsi sull'ondata di sollievo che la colse. Si sedette e si fissò le mani mentre faticava per riprendere il controllo del respiro. Era su una sedia. Era su una sedia accanto a Malfoy. Non era nel vuoto. Non c'era un vuoto. C'era del marmo sotto i suoi piedi. Non doveva andare da nessuna parte. Era su una sedia. Inspirò lentamente, fino a 4. Espirò, attraverso la bocca, fino a 6. Dentro, fuori. Ancora e ancora. Era su una sedia. Non doveva andare da nessuna parte. Il suo cuore smise lentamente di correre, ma le faceva male tutto il petto. Una volta che il balbettio del suo petto si attenuò, cercò di sforzare le dita a smettere di contrarsi. Non ci riuscì. Così vi si sedette sopra. Quando la mente le si schiarì completamente dal panico, una sferzata di amara disperazione la colpì. Era distrutta. Lo era. Era inutile cercare di negarlo. Mentalmente, qualcosa dentro di lei si era rotto durante la sua prigionia e non sapeva come aggiustarlo. Non riusciva a ragionare. L'aveva inghiottita dall'interno. Si fissò il grembo. Le lacrime le scivolarono dagli angoli degli occhi giù per le guance e lungo le labbra prima di cadere. Il taglio netto del vento gliele fece avvertire come ghiaccio sulla pelle. Le spinse via e si strinse il mantello intorno più stretto. Tirò sul cappuccio. Il mantello quasi la soffocava con il calore che le forniva, ma sentiva ancora freddo per l'orrore mentre sedeva, in silenzio sulla veranda, cercando di pensare. Era stata bene. Il giorno prima era stata bene. Perché? Perché la cosa non l'aveva disturbata? Era come una specie di agorafobia. Doveva essere così. In qualche modo, nella cella senza luce, né suono, né tempo, si era aggrappata alla sicurezza delle pareti. Il contenimento era diventato l'unica costante della sua vita. Così ora, ogni volta che era libera dall'orrore urgente della sua situazione attuale, ogni volta che aveva tempo per pensare, il senso di apertura le creava una paura che sembrava inghiottirla e l'esterno era molto peggio del corridoio di sopra. Forse era solo impreparata. Forse, ora che lo sapeva, sarebbe stata in grado di superare il panico se si fosse data degli obiettivi gestibili. Scendere i gradini, attraversare la ghiaia, camminare fino alla siepe, se si fosse mossa da sola. Certamente non aveva intenzione di inoltrarsi nel labirinto di siepi tanto presto. Le si contorse lo stomaco. la sua fuga diventava sempre più lontana. Non aveva nemmeno avuto la possibilità di studiare le opzioni per scappare. Più tempo ci metteva, sarebbe potuta rimanere incinta. Forse era già incinta. Se non lo era, ogni mese in più che veniva messa su quel tavolo aumentava le probabilità che lo sarebbe diventata. Voleva piangere. Guardò Malfoy, che stava studiando avidamente i punteggi del Quidditch. Quali informazioni utili avrebbe dovuto imparare su di lui? Tutto quello che aveva fatto era stato infuriarsi, leggere e poi andarsene a uccidere la gente. Non sarebbe mai fuggita. Probabilmente sarebbe morta in quel manor. Lo studiò con disperazione. Era solo freddo, arrabbiato. Una rabbia glaciale sembrava incombere su di lui. Poteva sentire la magia nera che si contorceva intorno a lui. Chi odiava così tanto? Era come Lucius che incolpava l'ordine per la morte di Narcissa. Tutti quegli anatemi erano una vendetta. Era questo che alimentava la sua ascesa. Tutto in lui era cambiato. Non sembrava esserci nemmeno un brandello del ragazzo che aveva conosciuto tanti anni prima. Era cresciuto, più alto e più impotente. La superbia che aveva a scuola era svanita, sostituita da un palpabile senso di potere, una sicurezza mortale. Il suo viso aveva perso ogni traccia di fanciullezza. Era crudelmente bello. I lineamenti aristocratici e affilati erano fissi in un'espressione dura e inflessibile. Gli occhi grigi erano come coltelli. I capelli erano ancora di quel biondo pallido e bianco, pettinati con noncuranza. Sembrava in ogni centimetro un indolente lord inglese, tranne che per la freddezza quasi disumana. Se la lama di un assassino fosse diventata un uomo, avrebbe preso la forma di Draco Malfoy. Lo fissò, assorbendolo. Bello e dannato, un angelo caduto, o forse l'angelo della morte. Mentre lo studiava, lui chiuse il giornale con decisione e la guardò. Incontrò i suoi occhi per un momento prima di distogliere lo sguardo. «Cosa c'è che non va?» chiese dopo averla fissata per diversi secondi. Lei arrossì debolmente e non rispose. «Se non me lo dici, ti prenderò la risposta dalla mente con la forza», disse lui. Hermione si sforzò di non trasalire di fronte alla minaccia. Fissò la siepe. «Credo che si chiami agorafobia», disse, dopo aver fatto diversi respiri profondi. «Qualcosa riguardo agli spazi aperti mi fa venire il panico». «Perché?» «Non lo so, non è che sia razionale», disse amaramente mentre ispezionava le cuciture del suo mantello. Il ricamo uniforme era qualcosa di ordinato da fissare, qualcosa di prevedibile, qualcosa che aveva un senso, qualcosa di diverso dalla sua mente irrazionale. «Hai una teoria, ne sono sicuro», disse lui con un tono di scherno, come se la stesse sfidando a rifiutarsi di dirglielo, in modo da poter entrare con la forza nei suoi pensieri e tirare fuori la conclusione da solo. Era tentata di mentire, ma sarebbe stato inutile. Lui, senza dubbio, sarebbe entrato di nuovo nella sua mente prima che lei fosse riuscita a scappare. Se non glielo avesse detto, l'avrebbe comunque scoperto il giorno dopo, o il giorno dopo ancora, o ogni volta che avesse deciso di indagare di nuovo nei suoi pensieri. «Probabilmente è dovuto all'essere stata in quella cella per così tanto tempo», disse dopo un minuto. «Non c'era niente. Era come un vuoto. Erano tutti morti. Sapevo che nessuno sarebbe venuto a salvarmi. Ero sola lì e non sapevo nemmeno quanto tempo fosse passato. I muri erano l'unica cosa reale. Credo di aver fatto affidamento su quello. Così ora, quando provo ad andare da qualche parte e non so dove va a finire, non lo so, non riesco. Mi sento come...» Si sforzò di spiegare il terrore. «È come se fossi di nuovo abbandonata, come se tutti fossero di nuovo morti e io fossi sola. E posso sopportarlo quando il mio mondo sembra piccolo, ma quando mi ricordo quanto è grande, non ci riesco, non posso...» Si sentì soffocare e smise di parlare. Non sapeva come descriverlo. Le parole non riuscivano a catturare tutta quell'irrazionale complessità. Spostò lo sguardo altrove, senza sapere come fare. L'espressione di Malfoy sembrò diventare più dura mentre parlava. «E ieri?» chiese dopo una pausa forzata. «Non lo so. Suppongo che l'orrore abbia superato la paura». Lui rimase in silenzio per un momento prima di sbuffare debolmente e appoggiarsi sulla sedia, studiandola. «Devo ammettere che quando mi hanno detto che avrei preso te, non vedevo l'ora di essere quello che finalmente ti avrebbe spezzato», disse e si chinò leggermente verso di lei con un sorriso duro. «Ma dubito che sia possibile superare quello che hai fatto a te stessa. È piuttosto deludente. Sono sicura che ci proverai comunque», rispose lei, guardandolo negli occhi. Sapeva di avere la disperazione scritta sul viso, ma era inutile cercare di nasconderla. I suoi occhi d'argento brillarono quando la vide.